Radio Città Fujiko e l'Università Primo Levi presentano Guida all'ascolto della musica classica, tre secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. All'inizio dell'Ottocento, nel 1801, celeberrima è la sonata al chiaro di luna. Sarebbe più corretto dire sonata quasi una fantasia, opera 27 numero 2. Il titolo chiaro di luna non è di Beethoven. C'è un disco che mi regalano da bambino, un vinile, della voce del padrone. C'è una bellissima copertina con un quadro di Renoir. E sopra, probabilmente un disco che ha avuto una diffusione mondiale, internazionale, però evidentemente la copertina è stata anche tradotta in italiano. E il titolo è Le belle pagine romantiche per pianoforte. E tra questi brani, oltre a Notturno di Chopin, oltre al Clair de Lune di Debussy e via dicendo, c'è il chiaro di luna di Beethoven. A parte che Debussy non è un autore del periodo romantico, non lo è neanche Beethoven. Oppure, di Beethoven si dice che è lì, sul confine, tra romanticismo e classicismo. Però dal momento che la musicologia, e ha tutta ragione, fa cominciare il romanticismo da Schubert, calcolando che Chiaro di Luna è del 1801 e Schubert è nato nel 1797, o il romanticismo comincia con un compositore di 4 anni, oppure continua attorno. Ecco, questa sonata comincia con questo brano celeberrimo, che è il Chiaro di Luna. Però secondo me questo è uno degli errori che si fanno involontariamente ascoltando, come facevo io da bambino, dischi con le più belle pagine romantiche per pianoforte. Dicono degli errori perché se noi pensiamo a un quadro, la Gioconda, tanto per dire più emblematico, probabilmente abbiamo in mente tutto il quadro, l'immagine di tutto il quadro. Sarebbe ben strano se, pensando alla Gioconda, avessimo in mente soltanto le mani o soltanto gli occhi. Eppure con la musica succede questo. Noi abbiamo in mente, penso che tutti conoscano l'Inno alla Gioia. È diventato anche l'inno della comunità europea. È comprensibile il motivo, anche questa idea di unione, che poi era nella stessa intenzione ideale di Beethoven, un'unione attraverso la musica, in questo caso. È un tema celeberrimo, e credo che tutti voi l'abbiano già sentito, ma fa parte di una sinfonia che dura 1 ore 10, la nona. E senza per questo volere mettere in evidenza eventuali lacune, ma quanti di quelli che conoscono questo tema e che potrebbero anche canticchiarlo hanno sentito per intero tutta la nona sinfonia di Beethoven? È evidente che ci possono essere anche cataloghi d'arte che mettono in primo piano un particolare, un volto di Guernica, di Picasso, ma questo non toglie che faccia parte di un quadro di piccole o grandi dimensioni che sia. E normalmente apprezziamo tutto il quadro. Con un brano musicale abbiamo l'obbligo, il privilegio di seguire i tempi della musica. La nona sinfonia dura 1 ora e 10, 1 ora e 5, dall'esecuzione. Davanti alla Gioconda ci possiamo rimanere 6 ore, ma possiamo anche rimanerci 15 secondi e dire: ho visto la Gioconda dal vivo. Anzi, ho battagliato per arrivare davanti all'immagine e vederla dal vivo. Il valore dell'Inno alla Gioia è che arriva dopo un primo movimento che è di una novità compositiva assolutamente travolgente, sconcertante. Arriva dopo quello che è il secondo movimento. Dicevo che la forma sonata come secondo movimento ha un canto e come terzo una danza e un minuetto. Ecco, nel giro di 30 anni Beethoven stravolge tutto, lo vedremo lungo il percorso, ma nel secondo movimento c'è lo scherzo, che è la danza, una danza che dal minuetto Beethoven ha trasformato questo minuetto che non gli stava più bene in quello che diventerà scherzo. E c'è uno scherzo che è quasi una marcia di guerra per certi versi, o comunque una memoria di qualcosa di estremamente intenso dal punto di vista emozionale. Per i greci c'erano 3 origini della musica: la musica intesa come canto, la musica intesa come danza e la musica intesa come marcia. Perché c'erano le 3 funzioni: la musica come momento languido, il canto può essere inteso nel senso più triste, il compianto, come può essere inteso come canto di felicità; la danza, che può essere la danza più sfrenata, quasi ipnotica, come la danza più posata; e poi la musica che esaltava quindi diciamo, per vederla con gli antichi greci, quasi esaltava la guerra, la musica come un momento di esaltazione. Questo scherzo della nona sinfonia è di una carica emotiva che è veramente esaltante. Poi c'è un lead, Beethoven aveva rovesciato il secondo e il terzo movimento, invece che al secondo posto il lead è andato al terzo con Beethoven. C'è un lead che dura anche questo quasi 20 minuti, un canto, un brano ad un adagio, ed è una melodia che comincia e fluttuando sempre sembra non avere fine, e dopo tutto questo percorso comincia un recitativo con dei cantanti che in una sinfonia era qualcosa di assolutamente folle. Comincia un recitativo che è quasi una, diciamo, una preghiera laica, un canto interiore, e che a poco a poco sfocia negli ultimi 5 minuti, che sono l'inno alla gioia. Ma questo inno alla gioia ha sì una grande bellezza anche se lo suoniamo al pianoforte. Ma quando arriva dopo quei 50 passa minuti creati da Beethoven, beh, è una delle cose più alte che la mente umana possa aver immaginato. Ecco, l'errore è che nella musica l'errore è involontario, ma che la nostra abitudine di fruizione, di ascolto di un'opera d'arte è legata al momento specifico. Della quinta sinfonia mi piace il primo movimento. Come faccio il secondo? Poi c'è un terzo, c'è un quarto. Però il secondo movimento... Se noi l'ascoltiamo come un brano a sé, allora ci può stare dentro al disco con le più belle pagine romantiche. Ma Beethoven primo non è un autore del periodo romantico. Secondo, possiamo vederlo come un romanticismo di chi vuole rompere degli schemi, di chi fa dei passi avanti da gigante rispetto a quello che è il livello artistico o, in ogni caso, quello che è l'aspettativa di chi ama la musica in quel momento. Ma dal punto di vista della struttura, con Beethoven la forma è la stessa di quella di Mozart, cambiano le modalità espressive. Con Mozart avevamo un trio d'archi, con Beethoven abbiamo questa linea tematica qua. Caratterizza il chiaro di luna. Che è solo l'accompagnamento, è l'accompagnamento a questa melodia. Anni fu un giovane studente dotato. per la musica, ma non almeno geniale, o forse non ancora dietro un padre musicista così attento come Leopold Mozart. In ogni caso, la produzione di Beethoven fortunatamente non comincia da bambino, comincia quando Beethoven ha già più di 20 anni. In realtà sono state trovate opere scritte a 17-18 anni, però i primi lavori pubblicati sono del 92 e Beethoven aveva 22 anni. I primi lavori pubblicati a Vienna, quando da Bonn si trasferì a Vienna per studiare con Haydn e con Salieri. Beethoven ebbe per tutta la vita il mito di questo musicista che forse ha conosciuto o forse no, al limite non è importante questo, ma che comunque era andato a Vienna per incontrare, 17enne, poi dovette tornare a Bonn e cominciò a preparare un secondo viaggio, questa volta col desiderio di trovarlo più fruttuoso, nel 91, ma alla fine del 91 Mozart morì improvvisamente. E nel 92 comunque partì per Vienna, centro della cultura musicale almeno dell'epoca. Beethoven che per tutta la vita ebbe in qualche modo il punto di riferimento della propria arte in Mozart. Ecco, questa sonata è una sonata che ricalca esattamente il modello che vi ho spiegato con la sonata in mi bemolle di Mozart. Un primo movimento che è un adagio, e anche questo è estremamente anomalo. Diciamo che a questo punto non più di tanto perché l'abbiamo già trovato in Mozart, però con Mozart è un caso un po' isolato. Mozart non farà più sonate che cominceranno con un adagio. Beethoven scrive fino all'opera 26 sonate che hanno un primo movimento, diciamo, accademico, con l'opera 26 un po' meno perché comincia con delle variazioni, però in ogni caso sta ancora dentro un certo rigore accademico. L'opera 27 comincia con un adagio. L'opera 27 è pubblicato come opera 27 su due sonate, la numero 1, meno celebre, e la numero 2, quella del chiaro di luna, molto più celebre, e l'opera 27 numero 2 e l'opera 27 numero 1 sono denominate sonate quasi una fantasia, perché doveva giustificare questo fatto di non mettere al primo movimento un allegro. Comincia con un secondo movimento, poi come secondo movimento c'è un minuetto e come terzo movimento c'è quello che sarebbe stato il quarto, cioè un rondò finale. Ecco, quello che è però importante è questo. Il brano, il titolo Chiaro di luna non è di Beethoven, è stato dato da un poeta svizzero che nel 31, quindi Beethoven era morto a 4 anni, era un poeta letterato, critico musicale, commentò questo primo movimento dicendo che era come una passeggiata notturna sulle rive di un lago, un'idea che Beethoven forse neanche aveva in mente. Poi il lato romantico che venne dedicato a Giulietta Guicciardi, contessina Giulietta Guicciardi, allieva di Beethoven, a quanto pare amata da Beethoven, non fu l'amata immortale, che non si sa peraltro chi fosse, ma comunque non la contessina Guicciardi, che però nel 1803 andò in sposa a un musicista artigiano, un compositore di balletti, molto meno nobile di Beethoven dal punto di vista musicale, forse più benestante, ma in ogni caso uscito dal panorama della storia della musica. Comunque questa sonata è dedicata a Giulietta Guicciardi. Ora, c'è un elemento che a mio avviso è abbastanza emblematico e che potrebbe in qualche modo essere visto come un elemento biografico di Beethoven in questo primo movimento. Ed è questa linea qua, la linea del tema. Ora, prima vi dicevo, come melodia è veramente debole, sono delle note ripetute e variano di poco. A differenza di quello che vediamo in Mozart, dove una linea melodica più espansa essere pensata per un violino, può essere pensata per un violino, quando una linea melodica è ferma, solitamente prevede le parole. E in questo caso le parole non ci sono, però questa nota ripetuta potrebbe contenere al suo interno le sillabe Lebewohl, che è addio. Al di là del fatto che possa, questa è un'immagine soltanto, che possa in qualche modo essere veramente un canto con le parole Lebewohl, è vero è che nel 1801, anno della composizione, Beethoven comincia ad avere i primi sintomi forti della sordità e scrive il testamento di Heiligenstadt, un testamento scritto a 31 anni con grande commiserazione, grande autocommiserazione, ma evidentemente emblema di un momento particolarmente disperato. E guarda caso scrive una sonata che utilizza come movimento, come flusso motorico, un modello che utilizza Mozart nella morte del commendatore del Don Giovanni. E se c'è un Lebewohl, più che a Giulietta Guicciardi, forse più un Lebewohl inteso come un addio a qualcosa di più alto, quasi un addio a se stesso forse, il tema Lebewohl, questa nota sarà ricorrente in Beethoven. Lo troviamo all'inizio dell'appassionata, non come note, come andamento metaforico. Già questo. Assiste a una conferenza, una sorta di qualcosa di quello che siamo adesso, e dove c'è un relatore che parla dell'arietta del secondo movimento della 111 e dove parla di questo Lebewohl, che è l'addio nel romanzo di Beethoven al periodo classico. È un'intuizione fantastica, probabilmente suggerita da Adorno, ma è un'intuizione fantastica in Thomas Mann. Il povero traduttore italiano Giorgio Poker traduce con addio, che non quadra con le nostre sillabe, però il concetto lo rende ugualmente, non lo rende dal punto di vista della poetica del testo. L'idea dell'Ebevol, dell'addio, ecco, lo troviamo in questo primo movimento. Non c'è un vuoto, ma al contrario viene riempito da quello che è il fondo. È come se In un canto la melodia è come se fosse il personaggio in primo piano in un quadro e l'accompagnamento è come se fosse lo sfondo. Ecco, in questo caso è come se lo sfondo fosse sufficiente. È più importante della parte mancante perché non ci accorgiamo che manca qualcosa che dovrebbe esserci. Questo è il primo movimento. Il secondo movimento è un minuetto. Ora vi ricordate il minuetto di Mozart? Elegante, comodo. Con Beethoven il carattere è diverso. È sempre un ritmo di danza, però è già più robusto, ha già più materiale, è meno semplice, meno spoglio. Come se una persona fosse più magra, un'altra un po' più robusta. Come se fosse un altro tipo di proposta, di comunicazione. Ma quando arriviamo a quello che è il trio, in Mozart, questo. Con Beethoven è questo. Beethoven trasformerà il minuetto in quello che sarà lo scherzo. Minuetto è una danza, dicevo, in tre, comoda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con Beethoven lo scherzo diventerà il ritmo del minuetto, ma fatto a una velocità improponibile. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Non ci si sta più. Ma neanche dei ballerini sono più a ballare. E non a caso Beethoven lo chiama scherzo. Quasi come se fosse un momento di divertimento un po' sciocco rispetto a quello che era la forma del minuetto. Ma che poi sarà la pratica musicale di tutto l'Ottocento, non ci sarà più il minuetto, a meno che qualche compositore neoclassico, come poi ci saranno, si voglia rifare volutamente a una forma ormai abbandonata. Ecco, con Beethoven questa parte del trio è praticamente quasi un Ländler. Il Ländler era la danza, anche questa in tre, una sorta di variante del valzer, che veniva ballato come valzer, ma non corpo a corpo, ma fianco a fianco. E quindi anche un po' più impacciata, ma anche un po' più fisica. Ecco, in questo caso abbiamo veramente perso tutta la grazia del minuetto di 20 anni prima. E questo perché all'inizio degli anni 80 Mozart se n'era andato da Salisburgo, dietro le imprecazioni del padre, la disperazione del padre, ed era andato a Vienna, non per andare alla corte di Vienna, ma con una falsa promessa di cercare lavoro alla corte di Vienna, ma in realtà per essere un libero musicista. E in quei 20 anni Mozart aveva aperto la strada a quello che il giovane Beethoven poi porterà avanti. Una scrittura che sicuramente era fuori dai canoni dell'eleganza un po' ingessata della nobiltà dell'epoca, ma è più una danza da cortile in questo caso. È ancora un minuetto, ma legato più a una danza popolare. E poi c'è il terzo movimento. È per Mozart un tempo brillante, per Beethoven pure, ma vi faccio sentire solo l'inizio. Questo è l'inizio del terzo movimento di Mozart. In Beethoven. Era l'italiano e devo dire che sapevano l'italiano meglio di noi per certi versi, perché quando si parla di piani sonori, forte, piano, in musica si parla di colori, che non è i decibel in sé. Ci può essere un piano inteso come un suono sussurrato che può avere un'intensità fortissima, e ci può essere un forte molto morbido. È come se noi usassimo un colore acceso in un contesto che lo rende diverso da quello che è la natura oggettiva di quel colore. In musica non si parla, quando si dice il forte e il piano, di piani sonori, ma si parla di colori. il fatto che un tempo veloce fosse un allegro, ma l'adagio, come lo intendiamo adesso, non è adagio tutto intero, era inteso come con comodità, ad agio, che chiaramente voleva dire forse non troppo veloce, però spesso la precisione dei musicisti non italiani nello specificare quello che avevano in mente dal punto di vista estetico era molto più centrata nella conoscenza della parola stessa piuttosto di quello che abitualmente consideriamo adesso noi, che abbiamo scritto adagio e pensiamo a una cosa lenta, abbiamo scritto forte e pensiamo a una cosa che abbia un volume particolarmente elevato. Ecco, questa sonata è in tre movimenti, composta da un adagio, da un minuetto e da un presto finale. L'idea di finire presto, cioè velocemente, è quasi una novità. L'idea che un brano non si basi più solo sull'allegro, un brano brioso per finire felicemente, ma finire con urgenza, quasi come se si venisse travolti da quello che è il sentimento che la musica suggerisce. Ecco, questa è la sonata, quasi una fantasia, opera 27 numero 2, denominata Chiaro di Luna. Avete ascoltato? Guida all'ascolto della musica classica. 3 secoli di creatività musicale. A cura del professor Stefano Malferrari. Trasmissione realizzata da Radio Città Fujiko in collaborazione con l'Università Primo Levi e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.